diciamo, un appartamento di appoggio a Porto Torres, che tra l'altro ci abitava anche la mia parallela, ecco poi l'ha trovata lì la casa libera. E quindi sono stato una decina di mesi, fin quando poi riuscivo a lavorare, andavo a passare, ci stava la casa mia e poi ritornavo giù. E questo qua di Porto Torres, la mattina mi fermavo lì a prendere l'autobus che ci portava a Fiumesanto, e me non offrivo un caffè, tu avanti un caffè, caffè qua, caffè là, ogni manzana, Maria fatta fuccia, vabbè non è che mi la fottia, ma un caffè. Ma il bello è che io il sabato non lavoravamo, la domenica vado giù in piazza e ti trovo lui con la moglie a braccetto. Ciao Giovanni, sei girato, ma mi dato il continuato ritto, piazza cos'è? Non mi conosce più. Luluni, l'una di espresso, a torre e chi via lo bar, e beh ciao Antonio, caffè, cazzo così, ormai non mi conosceva, mi conosce, vai non amare, vai. vabbè. Poi c'è anche chi si salva, gente che conosci da magari da una vita e un conto, però boh, così è. E poi un altro sardo si chiamava, sempre il Borotorge. Questo ha finito di mangiare in mensa, ha detto me lo fa sigaretta, ma tu lo fumi, ma sa com'è dopo mangiato, una sigaretta faceva piacere. Oggi, domani, dopodomani, ma la terza, Marco, io non ci ho visto più. Ha detto me lo fa sigaretta, a scuola sardo. Si chiama Ignazio, non ti offendere. Però se tu te ne compri un pacchetto, così te ne fumi una al giorno, ti dura 20 giorni, va bene? Perché adesso non te ne sto dando, mi ha rotto le balle. Io sono così in giro, purtroppo sei così. Io, vabbè, io se fumo non aspiro. Quando piglio il pacchetto mi dura dai 6 mesi a un anno di solito. Me ne dimentico pure. Quindi non fumo io. E io non fumo più da 7 anni, ecco. Ok, Antonio, poi parcheggio. Antonio, ripeti. Io... Antonio fuma il cigalo, fuma. No, fumo di quelle porcherie. E allora cosa fumi? Dilla zia Natalino tu. No, no. Vabbè, io non fumo niente. A me non mi piace nessun tipo di cigalo, a me mi piace un gnognò. Ah, brucia monello, che se non sei altro, si dice queste cose. Insomma, sembra che il parcheggio, sembra avanti. Ma dico se ti fa i denti, dico sì, Bucaccioni, accidenti, io non vi posso lasciare un secondo. Ma vabbè, allora, come te va? Popolo, come te la passi? So come anni che senza tanti inditi. No, mi sono scorso, mi stai sbagliando. Ah, mi sembra che una volta ci siamo anche incontrati in moto, ieri, o qualcosa ieri, a piedi, o ci siamo visti comunque, da poco. Sì, capo, più di una volta ci siamo visti, ci siamo visti in via Pascoli, ci siamo visti in Cotovico, sì, capo. Vengi con chi sa di cipretta, mi ha dato, con Burugani, ho fatto un giro, cosa aveva? Paranoia. Ma va, messo giù, ma più dente a mamma, scusate un attimo che vi devo lasciare un attimo, ci arrivo. Ok dai, andà bene. E bene, Tony, con me avevo mangiato allora. Mamma mia, non ne posso più, Tony. Perché? Avevamo da cavare Ramadan. Io oggi ero dalle parti tue e ho visto qualcosa, però te ne voglio parlare in verticale, no, a baracchino. Perché non ti fa dare il numero di telefono da Gianni che ce l'ha? E allora, Gianni, devo chiamarlo però. Perché è una cosa interessante per te. E vabbè, fatti dare il numero da Gianni che ce l'ha. Ok, dai. Con X un attimino per me, lo dà che devo telefonare a Gianni. E riprendi tu, Marco, lì. Io adesso faccio faccio una pausa, la lavatrice ha quasi finito, vado a stendere, e rilancio Natalino e dai, modulate voi. Se non entro, se non rientro, ritenetevi tutti salutati, ok? Vai Natalì. Ma quanto, come mi stai ricevendo, Marco? Un attimo prima di chiudere, che è strano, io ho 4 watt, più di quello già lo sai che non pompa questo qui. No, la cosa strana, per esempio l'altro giorno, già l'altro giorno, da quando è rientrato Antonio con la boomerang, mi arrivava a 8 il primo giorno, anche oggi è 8, con un modulo anche qualcosa di più, 8 pieno. Però cacchio, o si è stato a trasmitter, perché tu arrivavi sul più, a toccare il più, a sfiorare il più, e adesso sei 9,20, dovresti essere un 9,30. Però adesso se dagli altri vai bene, fregatene, vuol dire che lo smitter che è tutto. D'altronde sono baracchini che non tocco da mesi, eh. Questo era mesi, questo è il 3009 con lo smitter rosso. E non lo toccavo da mesi e mesi, magari si è anche un po' starato, cosa ne gioco? E verificherò, dai, con altri baracchini. Riprendi il zebra bianco per me. Allora c'è buono. Anto, piuttosto, aspetta, non ho verificato con te, da liscio. Ecco, ok, guarda così, nudo e crudo, il segnale, se corrisponde. Certo, da 9,10 a 9,20 per passa. Vabbè, quello magari è un po' più generoso, questo forse è secco, non lo so, guarda. E tutto, questi smitter di baracchini non valgono niente, non valgono niente. Va bene, a dopo, ciao, ciao. Ciao Marco, ciao, io forse gli ho attaccato, perché gli ho attaccato il filtro anti-TVI, e c'ho lo spezzone, quindi c'ho qui, diciamo, non è attaccata più dietro l'antenna. Capito? Io per riuscire il più basso possibile. Guarda a vedere, aumentato la di segnale adesso. 8,5, 9 modulato. Perché prima c'era meno potenza. Si nota comunque, pochino ma si nota. E Natali, conta una cosa, anche quel barilotto che ho dovuto usare io, il giunto, che prima non c'era, ora si abbia interferito, anche se anche io ho lo spezzone, ho il filtro anti-TVI che uso per eccesso di gelo, per eccesso di prudenza, se no me ne fottia assai a me, se metto 4 watt, pazienza, ecco. L'importante è che non faccia. Poi vabbè, l'ho messo anche perché magari c'è l'aiutino, cioè capito. Natali. Oh, dimmi. Niente, Gianni mi ha detto che non può adesso perché sono in fischia. Stavo cantando karaoke, c'è la casa piena, è un casino. Fogli e penna, ne hai. Aspetta, se vuoi ci spostiamo del canale, mia. No, vedo da spusti. Dai. Chi è che ce l'ha qua in frequenza, il numero tuo? Non lo so. Chi c'ha il numero tuo, non lo so. Il numero mio ce l'ha quasi tutti, si può dire. Marcolino, tu ce l'hai il numero di Natalino? Io. Anche tu, Anto. Ma tu, Anto, non c'hai il mio, però. No. Io ce l'ho. Se Natalino mi autorizza, te lo mando. E daglielo, Marco, che mi deve dire cosa, Tonino. Ok. Manda su WhatsApp, come vuoi, o mi telefono, non lo so. Però ricevo Natale, ti chiamo. Che si prende il biglietto di paro duro? Cioè, dove è tu? Su Facebook. Ma non lo considero neanche, guarda. No, è che non veda manco, hanno fatto la cosa, faccia ridere poi. Qua in piazza Madonna della Croce, qua dove ci metti al Balsano, hanno fatto queste cose di dalle di gruppo. Ma non veda manco un cane, non veda. Non apprezzano più la gente queste cose qua. Vabbè, io mi sono trovato lì, dove era, alla corte che c'era la sagra del processo. fatto la sagra del cinghiale del maiale, ma non mi ricordo comunque. E a parte della festa che si mangiava lì, se ci dava un tanto, poi c'era l'altra parte, c'era un piazzale che c'erano tutti quanti gli anziani, i giovani giocando, cioè ballando il ballo di gruppo, e vedo molte persone stavano lì a guardare, contenti a guardarli, anch'io mi sono fermato a guardarli perché è bello vederli, non che non ci va nessuno, è la gente ignorante, scusa, se rimangono in casa non fate nulla. Ma a quanto ho capito è stata una mezza cosa, perché l'hanno fatto in su, allora quello hanno fatto, ancora c'era molta più gente, era pieno, era, e giù non è andato nessuno a quanto ho capito io. Sì, ma che secondo te che posso è, la gente ci va su. Anzi, è meglio che uno si svaga un pochettino, vede una cosa diversa, insomma, fa piacere. È così, sono a casa, in casa è segregato. E ora vedi, la baranuglia le viene, per carità, no, no. No, io già l'ho organizzato in casa. Vabbè, anch'io. Non è casa mia, però... Ma Zebra, sei entrato? Marcolino, ma non ti ho rubato il mio numero? Sì, ma sei un po', è che sei bimbone. Lo cerca, attaccato, invia su WhatsApp, da lì te lo prendi, sai, lo muovi di fuori dal telefono, una cazzata qua. Ancora manda a Miro. 2 minuti ci voglio. Aspetta, qua è un casino, non trovo il tuo contatto. Questo telefono sta prendendo colpi, d'altronde c'era 4 anni e poi è tutto aperto dietro. Mannaggia. Quale? Un telefono per Zigone? Sì, sì, 40, bah, 40, sì, 4 anni in fedele servizio, però piano piano sta perdendo pezzi. Prendilo nuovo. Sarà che l'è pigliata la bronosfera quando ti ha chiamato Vito. Ti chiamo io, Marco. Chiama, chiama, che non sono in difficoltà, qua non mi ricordo come aggiungere contatti e tutto, chiama. C'è sempre quello, 9-8 finale? Eia. Ok, ti chiamo. Deo grazia, sto perdendo colpi, Ma cosa? Sì, prima era più pratico lo smartphone, adesso non, trattandolo poco anche di WhatsApp, di cose, non mi ricordo mai come aggiungere uno alla rubrica, come cercare un numero dalla rubrica per mandarlo, come ho fatto via telefono, insomma, disabituato, capito? Ecco come cazzo ci vuole, metti, vai sul conduttorino, schiacci, lo mandi su via WhatsApp, guardi dove lo vuoi mandare, dai, ed è fatto. Dopo da lì se lo prende e ci mette il tuo nome, il tuo nome. Sì, ma credo che sia risolto, Io l'ho mandato via telefono, eccetera. No, perché WhatsApp ogni tanto poi negli anni ha cambiato un po' le impostazioni, un po' ha aggiunto delle voci, magari spostato altre, non sono molto pratico. Poi io WhatsApp non rompo mai le balle, non mando sempre cose a raffica a nessuno, non mando niente che non sia che sia importante, mi diciamo, capito? Ah, avevo nota. No, perché c'è un amico, l'amico di questo amico, ogni giorno gli mandava uno dietro l'altro, messaggi, vignette, fornazzi, capito? Uno dietro, cosa dire, tutto il giorno, peribì, un incubo, l'ha dovuto bloccare. Scusa, sono da mio figlio a fare. Sì, Antonio, ho capito che sei diventato babbo anche. Sì. Quando è piccolo bisogna avere un sacco di attenzioni, occhi aperti, che non tocchi nulla, che non mangi roba che non deve mangiare, insomma, è un impegno un po'. E com'è la notte? Molto, piange molto oppure è abbastanza tranquillo? Le colichette, faticatino quasi. Mamma ha detto che da piccolo era abbastanza silenzioso, cioè se dovevo dormire dormivo, non rompevo troppo le scatole, cioè, capito? Trumido da bambino, trumido da grande. Ma tu sei sempre stanco. E quello sì, quella è una cosa irrisolta che boh, o non si capisce, o non lo so, non voglio approfondire. o non lo voglio sapere, forse cosa c'è. Oh, mi ha detto così. Io non ti conosco di persona. Aspetta, premi bene prima di parlare. Ho detto che io di persona non ti conosco, però da quanto vedo c'è sempre tanto. Sì, una cosa che è andata un po' peggiorando negli anni e non si sa, non si capisce, i medici me ne sanno tanto meno, allora pazienza, tiriamo avanti così. Chi c'è rimasto qua? Dai, io stacco un attimo, devo andare a spendere da poco fa e non stacco mai. Vediamo se è entrato Natalino, Tonino, Zebra, chi altro c'era? Qualcuno o non è uscito, si sentiva un'alternata, o era portante? No, a me non mi arriva neanche a porta. Pensi che me ne vado fino a letto. Stacco. E io dai, stacco che tanto devo fare roba in casa, ok? Ci sentiamo, ciao a tutti, ciao. C'è più nessuno qua. Buon anno. Ciao. Chi è? Chi è? Carlo, ciao. Ciao Carlo, guruni. Allora, come va? Sa va. Tendo. Come Carlo? Tendo i postumi dei festeggiamenti del Capodanno. Non ne posso più. Cata mia, rimane che abbiamo mangiato voci. Poi meno male Natale che sono finite le feste, da. Adesso rientriamo tutti al regime. E adesso tutto il Ramadan. E comunque domani c'ho un invitato e quindi vabbè, no, non cerchiamo di non eccedere. Vabbè dai, allora continui anche domani. E vabbè, ma meglio fare festa quando si può. Lo so, ma io non è che posso festeggiare più di tanto, no? Con quello che ho, quindi bisogna stare attenti anche. Vabbè, magari stando attenti piano piano, passino alla volta e si può fare di tutto. E una volta ogni tanto si trasgredisce. O comunque stamattina ero a posto. Perché non ci sono? Lo stesso. Stasera sono uscito io a fare un giretto, sono rientrato poco fa. Poca gente in giro, la gente è tutta rintanata adesso, perché magari di notte sono rientrati molto tardi, chi è rientrato di mattina alle 5 eccetera, e quindi c'era pochissima gente in giro. Lì c'è stato un flop il coso delle piazze di Sassari, che dice che c'era roba Alghero, erano tutti Alghero ieri. Qui ad Alghero addirittura dai vari paesi dell'Interland qua c'erano i pullman che partivano, e quindi ad Alghero c'era il pienone, non c'era posto neanche per camminare. I locali, i bar, dice che hanno lavorato sino alle 4 alle 5 del mattino, mi dicevano alcuni miei colleghi, che c'era una cagnara di traffico sino alle 7 stamattina. Poi piano piano si sono tutti ritirati. E infatti, ma che vuoi che ti dica? Va bene così, adesso domani viene uno che è in continente, quindi c'ho questo invitato qua. Preparagli roba buona, Natali, tanto avrà il frigo ancora pieno di tante cose. E uia, c'è arrivata roba pure oggi, dimmi tu. Infatti, questo periodo già c'è un po' di tutto, abbondanza, trullallere, trullallà, qualche beuzia e buonanotte ai suonatori. Sì, infatti adesso mi devo mettere a cucinare, sono cazzo, già le 7 sono, non me ne ero accorto, di più delle 7 sono. È giusto. Non ti mettere problemi, io che avevo acceso, ti ho sentito, allora sono entrato per augurarti buon anno e siamo lì, va bene Natale, ci sentiamo più tardi se va bene, se no nei prossimi giorni. Qui a Sassuolo è un vato bianco di culo. Sì, va bene, ci sentiamo alle prossime, ciao Antonio, anche a te. Ciao Natale, ci sentiamo. Ecco, buonasera, buonasera Savino qua al Maifu. Tanto auguri, buon anno a chi ha l'ascolto e a chi è, beh, che è sul canale. Avanti chi c'è, buonasera di nuovo. Buonasera Gavino, Antonio Lassassi. Buonasera Gavino, Carlo, buonasera Antonio, buon anno a tutti. Buonasera Carlo, buonasera Carlo, ben sentito come sempre e buon anno ancora. Antonio, da bravo hai fatto. Come tutti, dai, io sono uscito a fare una passeggiata stasera, c'erano i musei aperti, gratuiti, ho fatto un giretto a Porto Torres che c'era il museo aperto anche lì e poi Sassari, poi un giretto, ma poca gente in giro. Già lo so già, qua ci siamo divertiti in casa invece. Io ero solo soletto con mia moglie, quindi ce ne siamo andati un po' in giro. Ragazzi in giro? Mia figlia ce l'abbiamo all'estero, fuori, lontano lontano, in Australia, lei ha festeggiato anche prima di noi il Capodanno, che là arriva 10 ore prima. Ah, sta studiando lì. Esatto. E quindi alla fine poca gente, miglior festa, e già la facciamo lo stesso, capito? Cappa. E noi qua a casa cambiato altro impianto, yuppu, karaoke, musica, ha fatto giocare tutto e via. Antonio, e tu cantato hai? Sì. Un po' di musica me l'ascolto sempre perché ho una di quelle casse Bluetooth che ho collegato anche alla televisione, no? Col cavo ottico e praticamente c'ha la basetta col subwoofer eccetera, bassi regolabili eccetera, quindi con quella ogni tanto mi diverto, mi metto la musica e faccio andare, seleziono, che ne so, voglio selezionare canzoni di Natale e parte la musica e via, col telefonino poi controllo tutto. Che bello. Ma e quanto alti Coletto? Un mese ha compiuto. Sai che mamma ti cambia quando mi dice. Quindi è nato da poco allora, Anto, nel 2022. Sì, nel 28... Cos'era? Nel 28 novembre, no? E io c'ho mia figlia che era nata il primo di novembre, il giorno di tutti i santi. Scorpione come me. È nato il primo di novembre. Io sono nato il 6, scorpione come me. Sì, sì, i primi di novembre, certo. Io sono nato il 6. Già va bene, sì. Il 6, sì, sì, tutto scorpione è quello. Gabriele, il 28, è il Sagittario. Gappa, gappa. Ma c'è Gabriele? E dai che mamma ti cambierà la famiglia, Cosa gli sembra sentire la voce che esce dalla radio? Ma lui ascolta sempre quando è capo, quando non c'ha fame. Ascolta sempre. Te lo credo. Ancora è piccolino. Sì, ancora è piccolino. Allora auguroni anche per il piccolino Antonio, che io non sapevo niente. Perché poi mi sono mancato perché siamo partiti i parenti, ma si intende un po' di casino, eccetera. E adesso ti cambia tutta la vita. Lo so che cambia, però io sono contento lo stesso. Preferisco più lui che altre 100 cavolate. Già lo credo. Tutta un'altra cosa adesso. E vabbè, comunque quello fa parte di quasi la vita di tutti noi, no? Avere figli, chi più e chi meno ce li ha, insomma. E così è, Anto, vabbè. Quindi buon anno e buon tutto per il tuo piccolino. Sì. È il regalo più grande che abbiamo mai avuto. Quindi niente regali di Natale quest'anno, allora ti sei regalato il pupetto. Poi qualche cosa, ma perché c'è lui, perché c'è la famiglia, è tutta dedicata a lui, ma è vero, neanche troppo mamma ti dà la pazza. Gavino, quindi tu eri canterino, karaoke? Io? Gavino sto dicendo. Carlo, no, a casa, da mia suocera a Sassari, e poi qua sono entrato a luna ero già a letto, anche perché io non sono uscito perché ho la bambina piccola, perché in genere io ogni anno a Capodanno lavoro, però quest'anno la bambina ha quasi 3 anni, quindi non potevo mancare a casa, dovevo essere presente. E oggi la mia madre a Porto Torres, ma niente di che, alle 4 ero a casa, che adesso ho acceso, adesso il bugio ho acceso 20 minuti fa. Però prima di entrare in trasmissione un po' faccio scaldare. E niente. No, quest'anno proprio zero, quest'anno zero assoluto, anche perché non ho più voglia. Tu ci credi che ho bevuto un bicchiere di vino oggi a pranzo, ieri niente, oggi a pranzo un bicchiere di vino e basta. Adesso la mia compagna è salita con mia figlia a cenare la mia suocera e io infatti ho detto andate voi perché io devo andare a casa e non ho voglia di muovermi. Ma io lo stesso, ero a casa, ieri notte ho aperto una bottiglia di spumante dolce, tipo quel bracchetto, quel Contessalia che è dolce, perché a me quello brutto eccetera non li sopporto, mi fanno bruciore di stomaco e non li digerisco, invece se prendo quello dolce qualche bicchiere lo mando giù. Ne ho bevuto, perché non beve nessuno a casa, mio figlio un bicchiere e basta, poi il resto praticamente stasera gli ho dato il caputo alla bottiglia, l'ho finito perché già è piacevole quello, perché è dolce, era bello fresco quando sono rientrato, un paio di bicchieri ho finito la bottiglia e boh. No, ho bevuto 2 bicchieri di Acenta, di questo vinello Acenta che loro lo prendono. 2 bicchieri di vino bevuto, basta, ma mangiando un pezzo di cose, di dolce lì, un pezzo di, diciamo, di cosa c'era, di bignè, ma giusto 2 bicchieri, ma neanche un bicchiere e mezzo. No, quest'anno non avevo voglia di niente, quest'anno non avevo voglia di nulla. Era, dai, ho dato a Natale, ho dato tanto a Natale io. Lo stesso, forse a Natale abbiamo mangiato di più e quindi eravamo un po' ingolfati da allora. Vabbè, comunque, è arrivato anche questo di anno nuovo, l'altro l'abbiamo già archiviato e si tira avanti. Sì, è andato uguale, non cambia, è uguale, non cambierà proprio niente. Quando uno ha lavoro e la salute possono essere 100 anni avanti, ma guarda, va bene, vanno bene, quando c'è lavoro e salute vanno bene. Si dice che quando ti dicono spero che l'anno nuovo sia migliore, mi basterebbe anche uno buono e usato, così è. Infatti la cosa migliore è che ci sia la salute prima di tutto, poi il resto è tutto secondario. La cosa più antipatica è che abbiamo questa situazione internazionale della guerra, insomma, che poi alla fine stanno male loro, agli aggrediti, e stiamo male anche tutti noi, perché per colpa della guerra è aumentato un pochettino tutto. Potevamo stare un po' tranquilli, che stavamo uscendo dalla pandemia, invece purtroppo abbiamo ancora questa situazione. Speriamo che finisca quanto prima, che si ritorni più o meno come eravamo almeno 4 anni fa, prima della pandemia. Sì, infatti. Ma è tutto studiato a tavolino, ma siamo tutti. Ormai, allora io penso così, al mondo siamo in tanti, e prima o poi qualcuno schiaccia qualche tatto. La prossima guerra si farà con le pietre o le flaffe, come diceva qualcuno. Quando siamo sentiti noi avanti ieri, mi stai arrivando un pochino più basso, Carlo. Forse perché magari sto uscendo con pochi watt, io sto uscendo con 4 watt. No, anche avanti ieri mi stavo uscendo, però eri segnale noto, oggi sei un segnale 5-6 scarso. Ma forse sì, perché sono nella modalità normale. Aspetta solo un secondo, adesso come arrivo? 7,5, 7,8, vai, segnale 8. Niente, adesso sto uscendo con 5, con 10, adesso sto uscendo con 10. Adesso va meglio, Carlo, molto meglio. Ma ho detto, avrò un altro apparato, però era strano, perché la radio è sempre uguale, la modulazione lo stesso, però il segnale era un po' basso. Sicuramente sì, perché a volte per non disturbare esco con pochi watt, capito, perché praticamente TVI non è causa a nessuno qua, io sono in un condominio, eccetera, ma so che posso creare disturbi a qualcuno che usa le vecchie casse del computer. Tu dici? No. Un disturbo così lo puoi creare in 2U, ma non con la 27, mi segui, caro? Tu non hai questi grandissimi watt da prendere, da entrare dentro le casse del computer, ma in genere quelle lavorano in 2U. E invece, così mi ha detto chi è al quinto piano, che praticamente aveva acceso le casse, vecchie casse di computer, quelle che si usavano un tempo, che le colleghi con lo spinofre, eccetera, praticamente sentiva la voce, capito, la mia, e quindi ma solo in quello, perché io provo a trasmettere anche con più watt, e da me non causo né TVI né entro in nessuna cassa, io ho tutte casse nuove o le casse Bluetooth, eccetera, e non creo nessun disturbo. Ma infatti non dovete creare più TVI, non entrare nelle casse del computer, perché non sei in VHF e neanche in U, capito? Non lo so, è tutto un mistero. Tu pensa che io qua a casa lo stesso, non è che io ho le antenne, l'antenna della televisione, però TVI niente. E credimi che sono uscito anche con molti watt qua a casa, però non ho mai creato nessun disturbo, perché io prima controllo la mia televisione, mi segui? Mentre c'è un radioattore a 50 metri da me, che fa un casino nero. Addirittura a me mi fa mancare il segnale della telecamera. Ho capito, sì. Può essere che in UHF disturbano, in V mi sa, no, in VHF, in UHF non è rimasto più niente, mi sa, come trasmissioni televisive. Sono rientrato, dai, io ve li lascio. Ma più forte sto arrivando da te, Carlo. Guarda, Santiago 9 è qua, Antonio. Buono. Radio pulita, Super 5, Santiago 9. Che andrò da. Dai, questi giorni devo sistemare un po' di cose, poi già alzo un po' l'antenna e poi vediamo. Io, Anto, pian piano, adesso c'hai un sacco di impegni tra lavoro e il piccoletto, insomma, gli impegni di famiglia, quando puoi, ma anche se la lasci così, in città arrivi bene, qua. Poi non so, Gavino lo senti tu? Certo che lo sento. Qui come ti arriva, Antonio? Buonasera, Antonio, io ti sento proprio, ma in mezzo al corrente sento solo il tifo, è una radio col tifo, se non sbaglio, sento solo un fine trasmissione, non so se lui avevi coppia, io ti ripeto, lo sento bassissimo, so, ho sentito tramite gli altri che ha un'antenna, una boomerang, però no, io non lo curo, vabbè, conta che io sono qua vicino a Socio, sono in una sorta, eh? Ma io lo sento benissimo. Ti ha detto che ti sente benissimo, eh. Ah, positivo, positivo, mi fa piacere, mi fa piacere. No, Antonio, comunque tanto lui buona anche a te. No, io lo sento solo il tuo fine trasmissione e qualcosa in sottofondo al QRM, anche perché io in questi giorni qua ho una grandissima alternanza, e non ho capito neanche il motivo, comunque, dai, ci fa da tramite Carlo, riprendi Carlo. Prego. Distratto il brecco. Sì, sì, Gavi, già glielo dico io, Antonio, e cioè Antonio ti sente perfettamente in diretta, solo che Antonio, come hai detto bene tu, ha questa boomerang che dovrà portare un pochettino su, mi diceva prima, e quindi magari quando ha tempo, perché prima dove adesso ha cambiato casa, per cui ha cambiato anche antenna, prima aveva un'antenna che arrivava forte un po' dappertutto, Antonio. Vai, Antonio. Prima pompava qualche vero, ma non così, no. Prima arrivavo fortissimo, arrivavo. Già va, qua per Sassari vai bene anche così, magari nelle zone un po' più lontane, magari quando la sollevi, diciamo, riuscirai a raggiungere meglio anche quelle zone, tipo dove Gavino. Oh, allora, c'era un break, avanti il break. Capo, buonasera Carlo, buonasera Gavino e Antonio. Antonio negativo, non lo ascolto per niente, non lo tiro fuori, non so se lui mi ascolta, comunque lo saluto e gli faccio gli auguri di buon anno. E così a Gavino e a te Carlo. Sono entrato solo, vi ho sentito, a farvi gli auguri. Avanti a te Carlo, poi fai girare. Ehi amico, così facendo quattro chiacchiere, e oggi quattro chiacchiere in compagnia, già l'hai sentito, di Antonio e Gavino, e prima c'era Natalino e mi sa che però ha chiuso, aveva da fare. Vai Gavino. Buonasera, non mi sembra che... No, scusate, non mi sono presentato, Franco da Sorso. Avanti Gavino. Ciao Franco, buonasera Franco, mi hai sentito qua nel mio pupilastro, vabbè, se ne affaccio ti prego, non è un problema per me. Buon anno Franco, a te, alla tua famiglia, e tutto qua. Vai Carlo. Scusami, ti ho chiamato Eugenio, da segnale mi sembravi lui un attimino perché avevo l'audio basso e per me il segnale da Sorso o Porto Torres è sempre quello, capito? E quindi ho detto mi sembrava Eugenio la voce. Comunque auguri, buon anno anche a te Franco, ben sentito, era da un po' che non ti sentivo. Capo Carlo, io non stavo più accendendo. Sono salito qua e dovevo fare una cosettina al computer, infatti non mi trattengo neanche perché adesso spengo tutto e vado via perché sono a cena fuori. E niente, mentre ero al computer ho acceso un po' la radio e vi ho sentito, ho detto adesso entro e faccio gli auguri e poi me ne vado. Ok, io Antonio non lo sento per niente, so che con condizioni è. Comunque lo saluto lo stesso e vi faccio gli auguri di buon anno. Tito hai Antonio, Franco ti ha mandato gli auguri. Non lo sento, non capisco cosa. Franco da Sorso è entrato a farci gli auguri un attimino, che è acceso e ha detto che ha sentito che c'eri tu, ma lui ha detto che non ti sente per niente e ti fa gli auguri comunque. Bisogna che si alga l'antenna, perché prima io sentivo tutti, gli arrivavo fortissimo, arrivavo. Neanche questa bomba non la faccio uscire forte. Ok, va bene, ricambia Antonio, Franco. Ehi, capo, dai. Ok, io vi lascio al vostro coseo e ce ne ascoltiamo le prossimine. Avanti, Gavino, io vi devo lasciare, purtroppo che devo uscire, se no la signora mi picchia. Ci sentiamo. Avanti, Gavino. Salutoni a tutti e buon continuo. Sì, Franco, vai tranquillo, tranquillo, vai dopo che a cena che... Dai, che è meglio, che è meglio. Meglio con la faccia piena, dai. Dai, buona serata, Franco, ben sentito, ci fa piacere quando entri. Dai, di nuovo, passatela bene. Riprendi Carlo per Franco e poi riprendi Antonio. Ciao Franco, ci sentiamo, buon anno di nuovo, fatti sentire ogni tanto. Ehi, capo, dai, ciao ciao. Alle prossime. Antonio, quindi tu questa antenna quando hai tempo la devi un po' sollevare, così riesci ad arrivare anche da quelle parti. Sono andato stamattina a fare delle cose, la devo sollevare, sì, la devo sollevare, perché così non dico ma accuso, ma stiamo scherzando. È un problema, già ci sentiamo, sono qua io con Gavino, ancora quattro chiacchiere, anche io poi organizziamo la cena, per cui anche io chiuderò tra 5-10 minuti. Ce la risentiamo Antonio, grazie, ciao ciao, vai Gavino. Ciao Antonio, ci sentiamo, fatta la buona e passa buona serata, dai, solleva l'antenna e la cosa vedrai che rimarrà positiva, che sarà positiva. Sì, Carle, anche io rimango altre 5-10 minuti, poi prendo e chiudo, perché non ho voglia, non ho voglia. Ma tu lo sai cosa ho fatto io per parlare in radio? Me ne ho messa alla testa d'uomo, in modo che non fosse inutile e rimango in piedi. Rimango in piedi e quindi ogni tanto non ti appiccioli sulla sedia e stai, dai, così, a mandronare, no, io rimango in piedi, quando io sto volando sono in piedi, non sono seduto. L'ho vista giusta a fare così perché altrimenti diventa, diciamo, una cosa troppo sedentaria. E anche io molte volte, io ho tutto l'impianto in cucina, per cui col microfono posso stare tranquillamente seduto sul tavolo e usare anche il computer, perché ho la prolunga del filo del microfono e quindi arrivo tranquillamente là, a volte mi siedo, a volte sto in piedi, ma a volte anche io sto in piedi, mi metto anche, arrivo al frigorifero, prendo l'acqua, insomma già mi posso muovere, capito? Non è che sto spesso, è sempre seduto, anch'io molte volte sto in piedi, adesso per esempio sono in piedi. Sì, perché altrimenti diventa una cosa troppo sedentaria, diventa una cosa troppo sedentaria e non va bene. Stare in piedi poi, se hai notato, quando tu sei in piedi riesci a parlare meglio, è anche una modulazione più completa. Cioè, da seduto sei strano, sei troppo, non è bello, anche perché a me stare seduto poco mi piace. E niente, ho fatto questa cosa apposta, perché io ho qua una bella camera, dove ho, diciamo, la camera di mia figlia, l'ho ordinato, però l'ho messa in piedi apposta per quello, sì, ho deciso così. Adesso arrivo tranquillamente al lavandino, adesso per esempio sto aprendo la lavastoviglie, sto cercando una pentola grande che stanotte ci facciamo un pochettino di pasta, ma giusto due fili, capito? E riesco a fare tutto, anch'io non è che mi piaccia molto stare seduto, fermo là. Se poi accendo il computer, ti distrai col computer, non senti più il discorso, magari ci sono due che parlano e ti assenti troppo, invece rimanendo in piedi magari ci stai meno, però magari le quattro chiacchiere le fai meglio. Esatto, infatti se vedo non rimango tanto in radio, cioè, rimango sì, non ho problemi, però quando ti metti in radio in genere uno prende, si siede, fa, rimane seduto, quando sei seduto passi anche tutta la sera, per esempio esco da lavoro, finisco di lavorare alle 5 e mezzo, io non posso stare dalle 6 fino alle 9 di notte, alle 10 seduto nella sedia a fare radio, cioè nelle radio. Infatti ripeto, per me se in alto, quasi al tetto d'uomo sono 1,30 m, sono 1,30 m e rimango in piedi. Quindi da questa settimana cambia anche il meteo, così è capito, che abbassano le temperature. Io ho sentito così, bisogna vedere in Sardegna come si mette, capito? Perché sì, dice che sino al 2 e al 3 dovrebbe fare tempo buono e poi dovrebbero abbassarsi le temperature, però non so poi se arriva la pioggia o arriva solo il freddo. È ora che faccia anche un po' di inverno, come faceva un tempo, perché sennò poi ci abituiamo male e se non piove poi si asciugano i bacini, andiamo in crisi idrica e d'estate sarà dura, quindi se magari piove un pochettino è forse meglio per tutti. Sì, allora, ma adesso non so se tu mi offri certe cose, io abito in campagna, no? Ma tu lo sai che ci sono già le graminacce sbocciate? Ci sono già le graminacce sbocciate, voi glielo fate vedere, a mia moglie ha detto, io ho detto guarda questa studio. C'è la graminaccia che se io passo dei spugliatori adesso si la secca, cioè la taglio e se piove non fa in tempo a seccare perché la marcisce, però ci sono già le graminacce a gennaio, è una cosa che non è da sottovalutare. Ma cosa vuol dire le zale? Ci sono già le graminacce, la graminaccia esce a maggio, dai, se faceva tempo buono usciva fine aprile, metà maggio, adesso a gennaio ci sono le graminacce. Sì, è così, io ho visto anche degli alberi che ho qua vicino, io dove abito io dietro campagna c'è un parco delle suore, per cui e addirittura ci sono quei fiori gialli che uscivano a primavera, ho sentito le tortole cantare che solitamente arrivavano a marzo e siamo a gennaio, oggi stavano cantando le tortole, capito? Quindi ho detto è veramente strano, sulle rotatorie poi lo stesso, ho visto lì fiori, margherite, cosa che esce, capito, a primavera e sta uscendo adesso, a Mater Ecclesiae fuori c'è l'albero delle mimose e sta già facendo vedere, non dico i fiori ma li sta preparando già, a fine gennaio ci sono le mimose già. Ma sai cosa succede adesso? Adesso succede che gela, no? Che gela tutto, perché se fa questo freddo che ha detto gela tutto. E secca tutta il ciclo vitale anche delle api, che non impugnano, non fanno niente, capito? E quando sarà il suo tempo ci sarà tutto secco dal ghiaccio. Io mi sono accorto che io ho 10 alberi di olivo, tu ci credi che ho ancora delle olive verdi, ci credi? Stamattina ne ho raccolto un cesto, l'ho portato alla mia madre perché me le fa, diciamo, tagliate, no? E le prepara e ce le dividiamo, ho ancora delle olive verdi. Lo immagino. immagino, lo immagino, ho visto. Il problema è che se fa freddo adesso brucia tutto, è quello che stava fiorendo oppure stava preparando germogli, quelle piante lì le danneggia. Poi non si sa se faranno un'altra fase di germoglio, insomma, di fioritura. Il problema è quello, che se arriva il freddo non si sa poi quando va via. Esatto. Poi quando si arriva il freddo, magari ne fa due settimane e tu puoi iniziare di nuovo anche il caldo, non lo sappiamo questo. Però se arriva il freddo, fai a metà gennaio, l'ultima settimana di gennaio, e finisce a marzo, quelli sono guai, guai seri. Purtroppo noi non le guardiamo quelle cose, noi viviamo solo per il Dio denaro e basta, faremo una fine, che meritiamo faremo. Davvero, se non si mette rimedio a queste cose, oiaia, purtroppo è così, sta cambiando tutto, stanno cambiando le stagioni, dove fa freddo, hai visto negli Stati Uniti, nello stato di New York, in quella città di Buffalo, temperature a meno 50 addirittura sono scese, cose assurde, insomma, lì diciamo sono zone un po' fredde perché in quel versante lì fa freddo, ma diciamo che le temperature arrivavano a meno 20, meno 30, meno 50 gradi, infatti sono morte più di 46 persone, mi sa. Adesso io non so, perché direi una stupidaggine, ma a Forni ha nevicato, da Forni a Brutusfina ha nevicato? No, forse ha dato un mesetto fa, magari, che si erano abbassate le temperature, qualche passatina, ma adesso in questo periodo no, non c'è neve. Noi andavamo, io mi ricordo benissimo, fino a 10 anni fa io andavo alla Befana, andavo a Forni in agriturismo a Saorte a mangiare, e poi andavo a Bossù a Butustina per andare nella neve, quest'anno niente, è un problema, cioè io non ho sentito che quest'anno a Forni ci sia neve. Già gli altri anni nevicava, già a dicembre la Befana andava, quest'anno zero. Breche? Avanti Breche. Sì, una cortesia vi chiedo, perché ho cambiato il cavo all'antenna della macchina, era solo per sapere se stava uscendo bene, grazie. Sì, buonasera. Ci spostiamo sul 12? No, ma basta che mi dia un controllo, perché ho... Così era solo per vedere se stava uscendo, avevo cambiato l'antenna, il cavo all'antenna della macchina, e volevo sapere se stava uscendo. È da un po' che stavo ascoltando. Positivo, con chi parlo io? Sono Bruno, sono in macchina, vecchio CD, sono in macchina vicino alle Querce, sulla Monte Bianchino. Positivo, allora qua nelle coordinate, diciamo, zona fina tra sorso e ferrotore, si arrivi con una radio di 4 e un segnale di 5. Potrebbe andare bene, a me io ti ascolto bene con un segnale di 5. Grazie, tu arrivi molto bene, molto chiaro, qua arrivi proprio sparato, non mi sento bene tutti, molto bene. Va bene, dai, adesso stacco tutto, qua rimetto a posto il cavo, avevo un PL messo male, l'attacco dell'antenna, un'antenna canalizzata e chiusa per la macchina, e ne ho rifatto tutto nuovo perché stava funzionando male. Ok, riprendete, grazie per il controllo, saluto anche l'altro amico. Perfetto, ti do un controllo anche Carlo, così hai due paragoni. Vai Carlo per l'amico. Bruno, se non sbaglio. Sì, buonasera e buon anno. Bruno, qua mi arrivi fondo scala perché siamo anche vicino, se sei nella zona di Non è Sole Alto, zona delle Querce, a Voglia. Io sono all'incrocio tra Via degli Astronauti e Via Luna e Sole, quindi siamo lì, quindi qua non c'è problema. Mi arrivi fondo scala, radio 5, segnale fondo scala. Sì, no, anche tu mi arrivi molto bene. La tua radio è molto bella, molto chiara. Mi sento tutti bene, aspetta, adesso sono una radio particolarmente chiara, forte, ma molto bella. Va bene, dai, adesso chiudo tutto qua, vedo che sta funzionando. Avevo questi contatti dell'antenna, un'antenna calamitata che ho preso da Fusaro per mettere qualche volta la macchina. Ok, che è ritardata, grazie comunque. Ok, alle prossime allora Bruno, fatti sentire ogni tanto, va bene, riprendi tu, va bene. Sì, va bene Bruno, va bene, dai, sentiamo alle prossime, quando puoi entra per fare un paio, per fare un passione, dai. Carlo, io non... cioè, io a volte ci penso, Fede, a queste cose qua ci penso, a me piace la natura, piace anche rispettarla, sì, però stanno succedendo cose assurde, Eh sì, il problema purtroppo è noi nel nostro piccolo penso che possiamo fare poche cose. Chi inquina molto, chi peggiora questa situazione, la grande industria, sono i produttori di materie prime, le acciaierie, chi lavora i carburanti, quelle cose lì, l'industria, capito, soprattutto l'industria settore tessile, che usano coloranti e scaricano tutto dove, chissà dove le scaricano poi molte cose. Sono quelle le cose, poi le grandi emissioni sono le grandi megalopoli in tutto il mondo, vedi in India, la Cina, capito, Pechino, che fa non so quanti milioni di abitanti, solo una città, là in Cina ci sono città da 20 milioni e passa di abitanti, quindi là c'è una cappa di smog che va e ricopre tutte le città e crea problemi anche respiratori, non solo quelli dell'ambiente, ma anche alle persone. Infatti se qua non si mette il riparo davvero faremo una brutta fine. La fine che meritiamo, perché a volte io vedo, allora l'altro giorno ho pulito fuori dal cancello, no? Dopo proprio sulla strada, scusa, allora ho fatto la foto, infatti è una vergogna, ho raccolto due buste, quelle 70 per 110 di spazzatura, tovaglioni, birra, bottiglie di birra, lattine, Coca-Cola, pacchetti di sigarette, tutto. Io ho un pezzo di, quanto saranno, 120 metri è il muro mio di recinzione che lascio la strada. Ho tagliato gli spugnatori, ho fatto bene, ho pulito, perché a me piace tenere la pulita. Due buste di Mondezza, 70 per 110. E questo succede una volta ogni due mesi, perché ogni due mesi, adesso l'estate no, perché l'estate l'erba non cresce, però una volta ogni due mesi, nella stagione invernale, io lo faccio quel lavoro. C'è gente che l'ha bucata, e cioè io ve lo pulisco, e quelli che non lo fanno. Purtroppo hai ragione, così, ma molte volte tu pulisci, dopo due giorni guardi, è anche il vento che trasporta le porcherie che magari sono da altre parti e poi il vento fa il suo corso e ti trasporta anche le cose vicino tu dove avevi pulito. Io ho lo stesso, le aiuole vicino al garage, no? Delle aiuole grandi del condominio, ci sono alcune piante, molte le ho messe io, taglio l'erba, le zappetto, eccetera. Anche a me ogni tanto mi capita di prendere proprio buste e inizio a buttare pacchetti di sigarette, lattine o bottigliette di succo di frutta e cartoncini brick di succo di frutta, che magari qualcuno vede l'aiuola passando e, capito, magari bambini, non lo so, anche gente grande. E periodicamente anche io prendo, faccio così un po' di pulizia, ci butto via buste di porcheria, di roba. Purtroppo è così, sono le cattive abitudini di tutti noi. Quando si va al mare, ci sono certi elementi che vogliono presi, vogliono, guarda, un po', anche io a volte mi arrabbio, non ti metti in mezzo, non fai storie, perché dici sei sempre il solito, non va mai bene, non fa. Ma porca miseria, ma se io ti dico, cioè se io ti metto adesso il fiume Santo del Di Maggio, ci sono i gettini, mi segui? I gettini della differenziata, vetro, plastica, carta. no, no che no, le prendono e lasciano, le butte, ma lasciano come hai detto tu, quelle saffatte di coso che portano il porcetto, portano quello, si portano i travezzini, le lasciano in spiaggia. Quindi quando i vigili li mettono nel verbale oppure li mettono i divieti di campeggio, fanno bene o fanno male? Cioè non si può, guarda che da anni di lì a Fiume Santo, quando facevano i campeggi, ci sono i frigoriferi sotterrati sotto terra, per tenersi la roba in fresco. Cioè è assurdo, i frigoriferi sotto terra. Guarda, non lo dire a me, io lavoro all'aeroporto ad Alghero, tu devi vedere l'estate, io ti sto parlando solo dell'estate, perché anche d'inverno capita, secondo delle giornate, se ci sono più o meno voli, tu sai che non si possono trasportare bottiglie d'acqua all'interno dell'aria sterile, quando tu stai partendo, se hai delle bottiglie d'acqua,